Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! 18 e 19 marzo del 1848. Una buona giornata. In apertura di questa edizione, la rivolta di Milano contro gli austriaci. Ci colleghiamo con Paolo Piacenza, che si trova sul posto. Buongiorno Simone, le fucilate che sentite probabilmente in sottofondo dicono molto. Mi trovo non lontano da una barricata. Questa mattina all'alba abbiamo fatto un giro per la città. La situazione è surreale. Gli austriaci sono asserragliati dentro il castello sforzesco. Il comandante in capo delle forze dell'impero, il generale Josef Radetzky, è stato colto di sorpresa dall'insurrezione ed è dovuto quasi fuggire dalla cancelleria al castello a piedi. Ci sono barricate ovunque. 1700 secondo fonti di polizia che comunque preferiscono restare anonime. Alcune, come a Porta Venezia, sono state fatte con il granito dei marciapiedi, ma in altri casi, ad esempio in Piazza Cordusio, sono stati utilizzati i libri sottratti all'ufficio del bollo. Tutto ha preso il via la sera del 17 marzo, quando sono arrivati i primi dispacci sulla rivolta di Vienna. Radetzky ha ritenuto di calmare gli animi facendo affiggere manifesti nei quali si spiegava che l'imperatore aveva concesso la Costituzione, ma commesso evidentemente un grave errore. La mattina del 18 un gruppo di cittadini guidati da Cesare Correnti e da altri notabili della città si è diretto al Palazzo del Broletto, sede del comune, mentre un altro corteo ha dato l'assalto a quello del governo austriaco in Borgo Monforte e lo ha occupato. In questa giornata di piogge intense e di temporali i soldati austriaci si sono ritrovati ad affrontare uno scenario imprevisto e al quale non erano assolutamente preparati, e sulle loro teste non è piovuta, solo acqua, ma tegole, sassi, olio bollente e persino interi comignoli. E ci arriva intanto in questi minuti la notizia che altre città lombarde si stanno ribellando, mentre a Venezia la situazione si sarebbe stabilizzata con la città saldamente nelle mani degli insorti. Ma torniamo a Milano con il nostro inviato per capire come stanno pensando di reagire gli austriaci. Paolo Piacenza. Simone Radetzky è stato molto chiaro. L'intenzione è di mettere in atto una repressione durissima, quando ovviamente questo riuscirà al generale. La sera del 18 ha inviato un dispaccio a tutti i membri della municipalità intimando loro il disarmo della Guardia Civica e riservandosi, in caso di disobbedienza, di far uso, testuali parole, del saccheggio e di tutti gli altri mezzi in suo potere. Ciò, ha detto Radetzky, mi riuscirà facile avendo a disposizione 100.000 uomini e 200 pezzi di cannone. In realtà il numero di uomini è virtuale, perché sono tutti quelli che si trovano tra Mantova, Peschiera, Verona e Legnago. In questo momento il generale non può permettersi di sguarnire nessuna zona di quelle sotto il suo comando. Di fatto gli austriaci, a parte quelli asserragliati nel castello sforzesco e qualche pattuglia qua e là, per cui sentite queste fucilate, sono usciti dalla città. L'intenzione è dunque quella di assediare Milano e di muovere dai bastioni verso il centro. Le prossime ore sicuramente saranno decisive. E ora vi restituisco la linea. È tutto. Sul nostro sito potete scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Visitate il nostro blog, la pagina Facebook, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.